dormir et pour vivre un peu d'argent. J'espère que ce périple ne sera pas mon testament. Ça y est, je suis en Amérique et mon avenir est droit devant. Juste une vie, juste un trajet. Le trajet d'une vie, une vie à fuir des enragés. Le trajet d'une vie, juste le courage et la rage et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus ici. Juste un trajet. Le trajet d'une vie, une vie à fuir des enragés. Le trajet d'une vie, juste le courage et la rage et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus. Juste un trajet. Le trajet d'une vie, une vie à fuir des enragés. Le trajet d'une vie, juste le courage et la rage et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus ici. Juste un trajet. Secondo appuntamento per questa stagione 2021-2022 riguardante prove tecniche di trasmissione, quindi si torna in diretta, oggi 8 settembre del 2021. Onda Rossa modula sugli 87.9, in FM ovviamente, è un sito internet che è www.ondarossa.info, sia per lo streaming e sia per le preziose notizie contenute in esso. Ricordiamo la nostra campagna di crowdfunding che andrà avanti ancora per un po', 30 euro per 1000 ascoltatori, c'è una piattaforma specifica che si può rintracciare sul sito della radio e lì si possono scegliere le varie modalità di adesione. Intanto vado a salutare Alessandra qui a Roma, Massimo Oders Mascheroni di Oders, Tabu Arasa, Cortina d'Ampezzo, Laura Spree Crusher dalle parti di Frosinone. Cristiano Boccia di Chemical Resistance, Cecilia Miraduli del progetto Pindar, Nadir Persegona di Os, Rosa Levita del progetto omonimo, sempre di Area Industrial, Mauro qui a Roma e Francesco a Bergamo. A Berlino c'è Mariano Virdia, qui a Roma Fulvio Biondo di Solar Lodge che ascolteremo tra breve. Noise Cluster con Flavio e Derbecante Arianna Degni Lombardo, naturalmente maglia in Sardegna al pari di Nicola Locci. La Glacial Movements è una delle realtà più interessanti a livello di Italia e non solo, e che si caratterizza soprattutto per sonorità molto vicine all'ambient più siderale, più space, come si suol dire. Saluto intanto Jean-Claude Bertot. Tornando alla Glacial Movements, ci andiamo ad ascoltare l'ultimo album prodotto da questa label di Alessandro Tedeschi. L'artista in questione a me è abbastanza noto, si chiama John Sellekers. Per chi non lo conoscesse, si caratterizzò negli anni 90 come Xinguil, una florida realtà techno ambient trance che movimentava l'allora Nova Zembla e KK di Anversa, etichette proveniente ovviamente dal Belgio. John Sellekers è tornato usando il suo vero nome e lo fa con questo Observer Effect. Questa sera ci ascoltiamo a Water Sky. We'll be right back. Thank you. le impenetrabili coltri Space Ambient di John Sellekers, da questo Observer Effect, l'ultimissimo lavoro uscito quest'estate, con la Glacial Movements, label grossa realtà romana di Alessandro Tedeschi di Netherworld, anche lui ascoltato e apprezzato da queste parti. Risaluto Laura e Roberto Faloci di Phantom Ship, altra grossa realtà ambient che non a caso possiede ed apprezza questo artista canadese. Buonasera anche ad Alessia Rex in quel di Brescia. Adesso arriviamo qui in Italia, come al solito avremo molto materiale proveniente da, appunto, dall'Italia, e cominciamo con Pioggia d'Ambra, lui viene dalle Marche, Emanuele Fais, apprezzabile anche sul Laurel Temple, il suo profilo Bandcamp, che dà anche delle indicazioni per quanto riguarda la sua carriera di pittore. Tornando alla musica, ci andremo ad ascoltare un lavoro di qualche tempo fa dal nome Visioni Destabilizzanti dal Reame delle Ombre, a metà tra passaggi acustici e drone decisamente immobili con reverberi sparsi qua e là. Ci ascoltiamo Onanismo Rituale e La notte in cui il cielo andò in frantumi. Thank you. gioia molto sul nascere e di un vuoto che mai poteva essere colmato. Il sole si è spento, portando tenebre e desolazione. C'è un silenzio assordante per le strade. Dalle case provengono suoni che si fondono con il nulla. E tutto ciò mi appartiene. Perdo me stesso nella volta celeste. Una luna piena squarcia la notte, disperdendo dei brandelli, trafiggendo il mio cuore con una straziante malinconia. Cielo e pensi, macchine erotiche di luce sfumano nella notte. Una stella solitaria fallisce miseramente il suo disperato tentativo di illuminare il buio. Nulla di tutto questo è reale. Come sarebbe meraviglioso poter condividere quel terribile spettacolo celeste con qualcuno. Pensa come sarebbe perfetto annientare me stesso in un'emozione impossibile da contenere. Il sole non ha più forma, la luna è gelida e violenta la mia anima. Il cielo è frantumi, ha smesso di piovere già da tempo. Si perde in ricordi mai esistiti, mentre la notte dipinge tutto in una devastante tinta di alienazione. Interessantissimo questo lavoro di Pioggia d'Ambra, è anche un bel nome, l'ho sempre sostenuto, è Pioggia d'Ambra, molto molto suggestivo. Visioni destabilizzanti dal reame delle ombre, dietro si nasconde Emanuele Fais. E non mi stancherò mai di consigliarvi una capatina nel suo profilo Bandcamp, Aural Temple. Un lavoro uscito nel marzo del 2020, anche se poi tutte queste composizioni sono ancora più indietro nel tempo, tra il 2012 e il 2016. Interessante la tensione acustica da un lato, con intersezioni noise che arricchiscono tutto questo lavoro. Saluto anche Eugen Vintras da Venezia come Gin, e di nuovo Massimo Oders Mascheroni, Dario Arrighi di Progetto No Name con Sara K.O. Fontana. Ancora Italia e ancora più indietro nel tempo, Solar Lodge, evidentemente ispirati dall'avventura Coil. Questo è Spells of Challenge, un lavoro che è appunto 22 anni ma che conserva una freschezza non indifferente. Fulvio Biondo ed Enrico Angarano. Passaggi rarefatti che si vanno ad alternare ad altri più, diciamo, a scansione elettronica. Ci andremo ad ascoltare la settima traccia, che peraltro è la più lunga di questo album, che si chiama Se le silenze we celebrate. The Gynecologist, Chapter 12, Chatterley. The defendant was a stocky little man with a bush of salt and pepper beard. When asked to identify himself for the court, he replied, "I am Eros, god of love." finisce improvvisamente. Mi ha colto in fallo, come si suol dire, giacché nel disco è anche presente una traccia video che chiaramente il lettore non evidenzia. E quindi era l'ultima traccia di questo lavoro a livello anche audio, Celle Silene We Celebre, Solar Lodge di Roma con Fulvio Biondo e la ottima chitarra di Enrico Angarano, recentemente tornato nel progetto insieme a Fulvio. Ricordiamo anche l'uscita, se non erro, dell'anno scorso, Icebound Hearts, che ci siamo gustati anche qui a Prove Tecniche, e a questo punto manca soltanto Walks Away, che presto andremo a goderci. Bella la tensione drammatica effettivamente del pezzo testé sentito, con un'incursione anche tribale che ha caratterizzato gli ultimi minuti di questa lunga traccia. È il momento di menzionare Raffaele Pezzella, boss dell'Unexplained Sounds Group e altre 3-4 etichette parallele. Lo facciamo nel caso di Anthology of Experimental Music from China, quindi progetti ultrasotterranei provenienti da laggiù. Questa sera ci ascoltiamo Hong Hile con una traccia denominata Hin. Pensate quanto è bello e vario e vasto il territorio della Cina. Di conseguenza la cultura anche e gli aspetti della musica sperimentale assumono tante sfaccettature. Per esempio, sto andando sotto la mia voce, Ling Dai Guo con questa Chengdu Tuberculosis Hospital, titolo quasi raccapricciante, ma sentite l'afflato, diciamo, etnico anche che lo contraddistingue. In maniera più completa ci siamo ascoltati invece una traccia più meditativa dal nome Yin con Hong Kile e la più sperimentale Noise Music for Metro Train di Xu Cheng. Una compilation dunque molto molto varia ed appunto come in questa traccia e in altre anche di questo compendio c'è una diretta, un diretto collegamento con la tradizione culturale ed etnica cinese, il che rende ancora più interessante questa opera di Raffaele Pezzella, sempre sulla Nespless Sounds Group label. È uscita anche Anthology of Exploratory Music from India, arrivata anche questa sera qui in radio. Musica dunque dall'India, ancora più interessante. Questi viaggi veramente incredibili attraverso la musica, intrapresi dal buon Raffaele Pezzella, che vado a salutare. Saluto Isa Etual a Milano e Andy Rivieni di Attualità Nera. Quasi folk. Andiamo avanti, dunque, lasciamo la Cina. Torniamo in Italia, andiamo ad Asti, la città anche di Wurnus Aylin, anche loro all'ascolto, in questa circostanza di Alberto Clipper come MDMA insieme a Petrolio e Enrico Cerrato. Di loro ci andremo ad ascoltare questa loro collaborazione, questa unione di intenti che ha partorito Back on Earth Jesus. Sta per partire My Angel is a Distortion Knob e l'ouverture della film.